Boys and girls, your attention please. Presenting a new exciting radio program. Tutti più buoni, tutti più carini. Oggi nel mondo comandano i bambini. Chiedo asilo. Bentornati a Chiedo Asilo, un saluto da Drago. E un saluto da K. Sì, però scusa, Drago, è K e Drago, l'ordine alfabetico, ma, a scuola, l'asilo è importante. Prima l'ordine... K, poi Drago, no, suona anche meglio. Tito, insomma, non si può neanche discutere. Questo qui è il tutor, che interviene troppo. Ci siamo meritati il tutor. Ma no, ma scusa, ma io voglio dire una cosa, ma Giannino ce l'ha il tutor? No. Cruciani? Non ce l'ha. Caccia? Non ce l'ha. Caccia se lo meriterebbe il tutor. Sì, anche Nicoletti. Anche niente, sono, non capisco perché. Uno, vabbè. Non so, vabbè. Ora, chiedo asilo, il programma per i bambini, sui bambini, tra i bambini, fra i bambini, sì, con no, i bambini, tra, di Radio 24, sì. La radio giornalistica più importante. No, News and Talk, News and Talk. News vuol dire che dà le notizie. Ho capito che è la formula americana, News and Talk, che va bene, si fa bella figura usare, però io voglio capire. News lo capiscono ormai tutti. Sì. Ma talk vuol dire talk, parlare? No, è l'abbreviazione del talk show, no? Talk. Ma la radio? Ho fatto un talk. La radio più che parlare. Cioè Tito, ho capito, ma insomma stiamo ragionando sulla radio, il mezzo nostro di espressione. E comunque stiamo ragionando anche sul fatto che in Italia, purtroppo, l'infantilismo regna sovrano. E sì, questa trasmissione è un purtroppo po' qui per fare uno spot, un detect di questa cosa infantilizzazione. Sono cerco di usare tipo... infantilizzate? No, tipo news and talk. Ah, no? Okay. Quindi praticamente si parla della sindrome di Peter Pan, ma no, famosissima. Ma vedi che ti sbagli. Come? Ma sì, perché Peter Pan era un bambino che non voleva crescere. Esatto. E quindi mai si sarebbe sognato di fare un lavoro da adulto, tipo dirigere un'azienda. Certo che no. Dirigere una nazione. E invece oggi che cosa ci sono? Ci sono degli adulti che vogliono fare il lavoro da adulto, ma si comportano come bambini. E quindi è come avere un bambino che dirige un'azienda, che dirige una nazione. E quindi non è la sindrome di Peter Pan quella, allora, che regna. Bisogna trovare sindrome, un altro nome. Un'altra sindrome, K. Quella potrebbe chiamarsi la sindrome, ammoderniamolo, la sindrome di Toy Story. Perché Toy Story? Perché partendo dal film Peter Pan di Walt Disney, sindrome di Peter Pan, la moderniamo, sindrome di Toy Story. Ma cosa vuol dire? Che... Ma non c'è lo stesso, animazione, ma non c'è, no? Lo stesso significato, cartoni... non vuol dire niente. Metti insieme solo perché sono cartoni animati. Ma sì, infatti, che palle i cartoni animati, possiamo dirlo. Ma come che palle? Infestano tutti in multisala. Uno vuole andare a vedere un film così il venerdì sera e 8 film su 10 sono Piovono Polpette, Toy Story, L'Era Glaciale, Up, Nine, Astro Boy, Mr. Fox. Tutti usciti tutti quest'anno. Una volta usciva un film, ce n'era entro per 5 anni, guardavi quello. E invece Toy Story 3 è uscito quest'estate. Io me lo sono visto con un barile di popcorn, mangiati tutti, bevuta tanta Coca-Cola e mi sono tanto divertito. Perché Toy Story 3, così come gli altri film di animazione, Drago, se ci pensi, sono film e cinema ad altissimi livelli e senza finalmente l'ingombro degli attori. Come senza l'ingombro degli attori? Che film è il cinema senza attori? Vabbè, certo, guarda che molti dicono che il cinema è quello muto, quindi l'attore che parla è un fastidio. E poi prova a pensare, come diceva Frank Zappa, che fai a meno del fattore umano, ma fai arte. Quando Zappa scoprì la musica elettronica, Zappa. Si stava parlando di cinema, tu vai a finire su Frank Zappa. Ma perché il tutor, quando uno dice Frank Zappa o dice, non so, Schopenhauer, deve arrabbiarsi? Schopenhauer è una parola pulita, educata. Sì, vabbè. Comunque, allora, non ci saranno, non ci sono gli attori nel film d'animazione, però ci sono i doppiatori. Purtroppo, quindi, sì, umano, cioè, purtroppo sì. Insomma, il cinema è meglio muto, ma insomma, quando proprio devi parlare, va bene anche il doppiatore. Però ci sono doppiatori e doppiatori. Insomma, scusa, perlomeno negli Stati Uniti i doppiatori dei cartoon li pescano dal bacino di Hollywood, insomma, grandi attori. E invece in Italalia li pescano dal bacino della TV pre-TG. Ma come, quelli dei pacchi? Eh sì, insomma, il bacino, lo stagno. Perché insomma, Toy Story 3 ha il personaggio principale che è doppiato dal pur simpatico, ma insomma, Fabrizio Frizzi. Senti che roba. Va bene, aspettate di vedere com'è l'asilo. Perché? Com'è? L'asilo è un luogo triste e avvilente dove finiscono i giocattoli vecchi che non hanno più un proprietario. Vedi? E loro piangono, giustamente. Ci sai proprio fare, eh? Ci sai fare. Appena arriveremo all'asilo, mi supplicherete di andare via. vabbè, Fabrizio Frizzi, noi in Italia abbiamo questo, mica abbiamo Hollywood. Ho capito, ma Fabrizio Frizzi, senti, in America lo stesso personaggio lo doppia Tom Hanks. Qui sì, abbiamo Fabrizio Frizzi. Un confronto forse un po' impietoso, però diciamo che forse l'hanno preso dal punto di vista della fisionomica. Hanno deciso Frizzi perché c'è un po' di quel prognatismo come quello di Tom Hanks, sai, la mascella un po' in avanti. Ma cosa? La basletta? La basletta, e quindi magari Frizzi andava bene per quello. No, è il mercato, che impone i talent. I talent. Sono le stesse case di distribuzione cinematografica che vogliono i talent, ossia i personaggi famosi in un ambito differente da quello per cui vengono utilizzati. Hai capito? Sono quindi già famosi per qualcos'altro, quindi tu non so, metti un famoso criminale a doppiare un famoso criminale. Adesso metti Frizzi non è un criminale, Gerry Scotti neanche, credo. Pure sì, lui c'è anche lui, ma sì, anche lui in Toy Story e anche Giorgio Faletti. Diciamo che forse sono talent senza talento. No, sono quelli, vabbè, però ci sono anche i talenti che... con il talento nel doppiaggio. I talenti con il talento che non sono talent, però. No, esatto. Sono talented and talent. Vabbè, comunque non importa l'inglese, ma ne abbiamo uno al telefono con noi oggi, Luca Dal Fabbro. Ciao Luca. Ciao, vi ho sentito, è carino questo gioco di talent, carino, molto bello. È carino, è così, sì, purtroppo, sì. Luca, è proprio così. Lo so, questa è la vita. Però voi adesso che lo ascoltate alla radio, sono sicuro che riconoscerete nella voce di Luca Dal Fabbro la voce di, ad esempio... Di Mr. Pink, Mr. Pink. Ma molti non sanno chi è Mr. Pink. Sì, quello delle Iene. Qual era sono Mr. Pink? Sono i cultori del cinema. Delle Iene, ma l'attore, lui doppiava, è vero, il personaggio, ma in realtà doppiano poi l'attore con regolarità. E l'attore in questione era Steve Buscemi. Quindi Luca Dal Fabbro è il doppiatore, tra gli altri, di Steve Buscemi. Vabbè, però stavamo parlando di doppiatori di film d'animazione, perché tiriamo fuori il doppiatore di Steve Luca Buscemi, Dal Fabbro è anche il doppiatore del più famoso camaleonte della pubblicità. Esattamente. Sarebbe, lo possiamo dire chi è o non lo possiamo, certo, possiamo dire? Dirlo. Carletto dei Sofficini, che Carletto. Non è Carletto quello che la fa nel letto. Va bene, ho capito, non è quel Carletto lì. Ah, Carletto quello che dice che ha sempre fame, no? Quindi, che chiede agli altri se ha fame. Esatto, che chiede più che altro, gli chiede sempre, ma tu non hai fame, lo chiede agli altri. Ecco, capito? Questo è Carletto, no? Questo è Carletto, esatto. Invece Steve Buscemi come direbbe tu non hai fame? Tu non hai fame? Bene, è diverso. Molto diverso. Vedi, Carletto com'è? È più cattivo, Steve Buscemi si arrabbia di più di Carletto. Capito? Invece Carletto com'è? Carletto è, tu non hai fame? Steve Buscemi? Tu non hai fame? Ci va un attimo di... Capito, beh, certo, sono quelle cose che fanno la differenza. Però adesso bisogna dire che Luca Dal Fabbro è entrato con piede sicuro nel gota del cinema d'animazione. Assolutamente. Sì, con Shrek 4, che è la novità del momento. Sì, perché infatti nel trailer di Shrek 4 si scopre che Luca Dal Fabbro interpreta il personaggio, il cattivo della situazione, e cioè il nano Tremotino. Sentiamo il trailer. A volte vorrei avere solo un giorno per sentirmi un vero orco di nuovo. Nessun problema, le transazioni magiche sono la mia specialità. Una firmetta. Entro la fine della giornata tu ti sentirai un orco nuovo. Buona giornata. Ehi, questo non faceva parte del patto. Sciocchino di un orco, è tutto cambiato, sono re ora. Vedi, diventa addirittura re, quindi tu diventi re in questa storia, importante. Bellissimo, sì. Questo è un ruolo bellissimo per Luca Dal Fabbro, giusto? Sì, c'è un piccolo problema che poi vi svelo però. Sì, no, dici pure. Ve lo svelo il problema? Sì. Che non l'ho fatto io ho fatto solo il trailer. Ma come? Proprio, certo, perché c'è quel famoso discorso che facevi te dei talent, capito? Ah, quindi non è stato il caso in cui finalmente un talento non talent... No, assolutamente no. Vabbè, però scusate, allora a me viene un'idea, visto che siamo qua con Luca Dal Fabbro, lui ha fatto Tremotino, anzi non l'ha fatto, facciamogli bravo, fare... Non l'ho fatto. Non l'hai fatto purtroppo, ti facciamo fare noi Tremontino. Tremontino, che bello, va bene. È un bellissimo personaggio. Devo fare un po' di moscia per fare Tremontino. Forse sì. Tu forse fai Tremontino, sì. Io faccio invece dell'orco faccio il cavaliere. Puoi fare va il bene, cavaliere. E quindi Tremontino sta tramando per prendere il posto del cavaliere come re, come capo del regno. Allora. A volte vorrei avere un solo giorno per sentirmi un vero cavaliere di nuovo. Nessun problema, le transazioni magiche sono la mia specialità. Una firmetta, entro la fine della giornata ti sentirai un cavaliere nuovo. Crippio, che succede ora? Buona giornata! Ehi, ma questo non faceva parte del patto con gli italiani? Sciocchino di un cavaliere, tutto è cambiato! Sono re ora! Ma Tremontino non ha ancora fatto i conti con il vero amore. Se il cavaliere si scambia il bacio di vero amore con Fini entro l'alba, è la fine del mio impero! Ma è Fiona, non Fini! Prendetelo! Allora è un ribaltone. Fiona, Fini! Fini, Fiona, Fieno, il patto con gli italiani, Fini, Fiona! Fiona? Sì? Torniamo domani e mandate i vostri doppiaggi a chiedoasilo@radio24.it.